البلاد طردوا الأجداد صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو فلسطين عربية حرة أبية القدس إلنا يا أحرار قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو قالوا يا سلام أو يا سلام لا صفقة بدنا ولا استسلام قاومنا دفعنا حتى نرجعها صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو قالوا ما قانون دولي قانون Buongiorno Palestina. 163esima trasmissione su Radio Wombat. Hanno creato allarme gli imponenti movimenti che a livello mondiale hanno dimostrato di riconoscere che nella lotta per la libertà della Palestina c'è la libertà di tutti. Ora tira aria di restaurazione e uno dei loro cavalli di battaglia è la raffica di proposte di legge, i DDL, che mentre proclamano lo scopo di contrastare l'antisemitismo, in realtà lo favoriscono. Non ha sollevato particolari commenti e sono passate quasi sotto silenzio mediatico le audizioni tenutesi in Commissione Affari Costituzionali al Senato il 15 gennaio scorso, audizioni dal titolo Contrasto all'antisemitismo, in merito ai vari DDL che sono proliferati in questi ultimi tempi, per poi approdare il 27 gennaio alla proposta del senatore leghista Massimiliano Romeo. Attenendosi alle direttive dell'AIRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, tutti i DDL si arrogano il diritto di legiferare su presunti atti di antisemitismo, ma di fatto diventano strumento politico di repressione del dissenso e della critica al governo israeliano e strumento di repressione della protesta. All'interno delle audizioni, di cui vi daremo informazione sui partecipanti e sulle loro posizioni, ascolterete l'autorevole voce di dissenso del professor Simon Levi Sullam, contrario a qualsiasi iniziativa di normalizzazione e di legiferazione. Il professor Simon Levi Sullam fa parte di quei 400 studiosi che hanno contribuito alla formulazione della JDA, Dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, oggetto fino ad oggi di troppo prudente silenzio. Contrariamente a quanto vi avevamo preannunciato nella trasmissione precedente, Arab, il figlio di Marwan Barghouti, non sarà a Firenze ai primi di febbraio perché è impegnato in Irlanda e in Spagna. Ma nel giro di pochi giorni, nell'ambito della campagna per la liberazione di Marwan, si è già costituito un comitato locale fiorentino a cui hanno aderito un folto numero di associazioni. Destinato ad aumentare nel tempo, infatti è ancora possibile iscriversi e le altre associazioni della città metropolitana che volessero aderire troveranno nella pagina blog della trasmissione di oggi l'indirizzo mail a cui scrivere. Nell'ambito delle iniziative proposte per la campagna per la liberazione di Marwan Barghouti è prevista la presenza della palestinese Khalida Jarrar, figura popolarissima e conosciuta in Palestina e nel mondo, liberata da Israele come parte della prima ondata di scambi di prigionieri concordata con Hamas nell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Era tenuta dal 26 dicembre 2023 in detenzione amministrativa nella prigione di Ayalon a Ramallah e più volte in isolamento come forma di punizione per 6 mesi in una cella di 1 metro per 1,50 m. La lunga carriera di Khalida Jarrar come attivista l'ha portata a trascorrere gli ultimi 3 decenni dentro e fuori dalla galera e durante la sua detenzione nelle prigioni israeliane ha perso suo padre, sua figlia e sua nipote. A partire da oggi, 4 febbraio, sarà di nuovo in Italia un militante di Tayush, un'organizzazione israeliana di sostegno ai renitenti alla leva e in difesa dei palestinesi dalle violenze dei coloni nei territori occupati. Le iniziative collegate alla sua presenza anche in Toscana le troverete sul sito di assopacepalestina.org. E tramite le associazioni che via via le organizzeranno. Prossime iniziative. Nel corso della settimana, venerdì 6 febbraio, sciopero nei porti contro le guerre. Dockers don't work for war. I portuali non lavorano per la guerra. È lo slogan dello sciopero internazionale in questo venerdì 6 febbraio. La chiamata parte da Genova, ma risuona in tutta Italia, in Europa e nel Mediterraneo. Bilbao, Tangeri, Pireo, Mersin, Genova, Livorno, Trieste, Ancona, Civitavecchia e altri ancora. Procediamo ora, come di consueto, con la rassegna stampa e un breve stacco musicale. Sono Claudio, vi segnalo alcuni articoli usciti in italiano nell'ultima quindicina, senza la pretesa di una vera e propria rassegna stampa. Cominciamo dal sito di Zeitun. Titolo: L'espulsione finale dei palestinesi è in corso e la vostra indifferenza lo permette. L'articolo è a firma di Amira Haas e accusa la perdurante, oggi come ieri, indifferenza degli israeliani cosiddetti democratici verso la condizione dei palestinesi, in quanto è questa indifferenza che produce i Netanyahu. Titolo: La sindrome della tenda bagnata sta uccidendo i neonati di Gaza. Le restrizioni israeliane su strutture di riparo e medicinali hanno lasciato indifese le famiglie sfollate, mentre i neonati soccombono alla esposizione alle intemperie, alle malattie peraltro prevenibili. Titolo: Le esportazioni agricole israeliane rischiano un imminente collasso, poiché il mondo rifiuta i suoi prodotti a causa del genocidio a Gaza. I coltivatori israeliani segnalano che le esportazioni agricole del paese stanno affrontando un imminente collasso dovuto all'opposizione internazionale al genocidio a Gaza. Recenti reportage mostrano l'impatto del boicottaggio, insomma, del BDS. Titolo: UNRWA, rischi di malattie a Gaza ai massimi livelli a causa della carenza di vaccini. Passiamo ora al sito di Invicta Palestina, titolo: Palestine 36, memoria di una rivolta. Palestine 36, Palestina 36, riguarda il 36 e 1936, la rivoluzione palestinese del 1936 contro il dominio coloniale britannico. In realtà il film parla dell'attuale bivio che la Palestina si trova ad affrontare in questo momento. Passiamo ora al sito di Amicizia Italo-Palestinese. Titolo: Diplomatici statunitensi si sono rifiutati di rivelare le condizioni apocalittiche a Gaza. Nel febbraio del 2024, a poco più di 3 mesi dall'inizio della guerra israeliana a Gaza, l'ambasciatore americano in Israele e la sua vice hanno bloccato in un documento in cui si avvertiva che il nord di Gaza si era trasformato in una terra desolata e apocalittica, così definita. I due avrebbero bloccato il cablogramma che descriveva le conseguenze dell'attacco israeliano con dettagli strazianti e l'avevano bloccato perché ritenevano che mancasse di equilibrio, cioè di un controdocumento da parte israeliana. Il fatto ricorda il nostro ministro Valditara sul contraddittorio nella scuola quando si parla di Palestina e la sua circolare, ma questa è una nota della nostra redazione. Titolo: che nella striscia di Gaza siano state uccise oltre 71.000 persone, ora lo ammette anche Israele, cioè lo dice apertamente l'IDF, l'esercito israeliano, confermando i dati del Ministero della Salute di Gaza. Passiamo a Sopace Palestina. Titolo: il valico di Rafah apre, chi può davvero lasciare Gaza? Il valico di Rafah è stato riaperto sotto il rigido controllo israeliano, consentendo i movimenti limitati, mentre migliaia di pazienti di Gaza rimangono invece intrappolate in attesa di cure mediche urgenti. In realtà vengono consentite solamente uscite, cioè palestinesi che se ne vanno, non che rientrano a Gaza. Titolo: 11 paesi, tra cui Francia e Regno Unito, condannano la demolizione della sede dell'UNRWA da parte di Israele, della sede UNRWA a Gerusalemme. Per condannare, loro condannano, certo, ma poi si fermano lì, eh. Il governo israeliano ha annunciato l'intenzione di costruire alloggi in quel luogo. Titolo: il Consiglio di pace per Gaza spiegato come Gaza è diventata il modello per un nuovo ordine statunitense. È un articolo di Ramzi Barood in cui ricorda che quando l'ONU non riuscì ad assecondare pienamente gli interessi degli americani, in particolare quando l'ONU rifiutò di concedere all'amministrazione Bush l'autorizzazione per invadere l'Iraq, l'ONU venne etichettata dagli Stati Uniti come irrilevante. Bush guidò quindi la sua cosiddetta coalizione dei volenterosi, cioè inventò questo gruppo e questa coalizione e la guidò in una guerra di aggressione che devastò l'Iraq in modo che ne vediamo ancora oggi le conseguenze. Una manovra simile si è svolta in Palestina nel 2002, con l'invenzione anche in questo, cioè invece che ricorrere all'ONU, si inventò il cosiddetto quartetto per il Medio Oriente, cioè un quadro dominato dagli Stati Uniti e da Israele. Fin dalla sua nascita, il quartetto ha sistematicamente emarginato l'agenzia palestinese, isolato Israele dalle responsabilità, cioè e relegato il diritto internazionale a considerazione secondaria e spesso sacrificabile. Cioè il metodo americano rimane coerente, cioè quando i meccanismi internazionali esistenti non riescono a servire gli obiettivi politici degli Stati Uniti, allora gli Stati Uniti inventano una nuova struttura. E così sta accadendo oggi con il Consiglio di pace per Gaza, cosiddetto. Titolo: un coro di bambini irlandesi ci ricorda le somiglianze della loro storia con la storia della Palestina. Irlanda e Palestina sono state entrambe sotto il colonialismo britannico. Un coro di bambini irlandesi ricorda il loro comune soffrire. Ricordiamo invece, con l'occasione, il coro di bambini israeliani che inneggiavano ai loro bombardieri e allo sterminio dei palestinesi, che venne diffuso qualche mese fa da parte del Ministero dell'Educazione israeliano. Bambini che cantavano "Ammazziamoli tutti". Titolo: rapporto del gruppo israeliano B'Tselem sugli abusi e le torture inflitte ai detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Abusi sistematici, tra cui violenze fisiche, psicologiche, condizioni disumane, fame deliberata e negazione di cure mediche. Nel contempo sono stati pubblicati da parte dei nostri sanitari per Gaza due dossier. Uno dal titolo "La tortura come strumento genocidario del colonialismo israeliano in Palestina" e l'altro dossier dal titolo "La distruzione deliberata del sistema sanitario a Gaza". Per procurarsi i due dossier, due fascicoli, consultare la pagina Instagram di Sanitari per Gaza. Passiamo a Presenza, ultima. Allora, titolo: David Grossman a Napoli con Maurizio De Giovanni, dialogo sulla parola. È un dialogo, un incontro al Teatro San Lazzaro che è avvenuto a Napoli. Allora, da notare che secondo Grossman, israeliani e palestinesi restano spesso intrappolati nella ripetizione degli stessi gesti e delle stesse parole. Cambiare narrazione non significa dimenticare il passato, dice Grossman, ma interrompere un meccanismo che continua a produrre gli stessi effetti. Era l'ultimo articolo, per oggi abbiamo concluso. Buon proseguimento. Through the little streets of Belfast in the dark of early morn, British soldiers came marauding, wrecking little homes in scorn. Heedless of the crying children, dragging fathers from their beds, beating sons while helpless mothers watched the blood pour from their head. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man will stand behind them and behind the wire. Not for them the judge and jury, nor indeed a crime at all. Being an Irish means we're guilty, so we're guilty one and all. Round the world in three little takos, Cromwell's men are here again. England's name again, a sovereign in the eyes of honest men. Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man will stand behind the men behind the wire. Si è tenuta il 15 gennaio in Commissione Affari Costituzionali del Senato la discussione sulle proposte di legge in materia di contrasto all'antisemitismo nell'ambito dell'esame dei disegni di legge numeri 1004, 1575, 1627 e 1722, di cui si sono fatti promotori rispettivamente. Per il 1004 da Massimiliano Romeo della Lega, il 1575 di Ivan Scalfarotto di Italia Viva, il 1627 dell'ex missino Maurizio Gasparri e il 1722, l'ultimo proposto da Graziano Del Rio del PD. Per molti versi piuttosto simili tra loro e con forte enfasi sul ruolo delle istituzioni educative nel contrasto all'antisemitismo, in particolare quello di Gasparri prevede esplicitamente sanzioni per docenti di scuola e di università che si rendano colpevoli di violazione dei doveri di prevenzione e segnalazione. E introduce inoltre una modifica del codice penale. In apertura è intervenuta Noemi di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ha richiamato l'attenzione sull'urgenza di un intervento normativo capace capace di rispondere alla crescita degli episodi di odio e discriminazione antisemita e di colmare alcune criticità emerse nell'applicazione delle norme vigenti. Oltre a chiedere un intervento normativo, la Presidente UCEI ha invitato a costruire diversi percorsi per il contrasto all'odio antiebraico. Dalla relazione introduttiva è nato un confronto con alcuni senatori, incentrato in particolare sul rapporto tra libertà costituzionali e fenomeni di abuso delle stesse, sulla definizione di antisemitismo e sull'efficacia degli strumenti legislativi e giudiziari oggi disponibili. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee. In Italia si parla, anzi si straparla, di antisemitismo invocando quella dichiarazione, l'AIRA, di cui Trump in America si serve per stroncare ogni movimento di critica verso Israele e verso se stesso. Non si parla mai della dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, in un acronimo la JDA. La dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo è uno strumento per identificare e affrontare e aumentare la consapevolezza sull'antisemitismo. Include un preambolo, una definizione e una serie di 15 linee guida che forniscono indicazioni dettagliate a coloro che cercano di riconoscere l'antisemitismo al fine di elaborare risposte. È stato sviluppato da un gruppo di studiosi nei campi della storia dell'Olocausto, degli studi ebraici e degli studi sul Medio Oriente per affrontare quella che è diventata una sfida crescente, cioè fornire una guida chiara per identificare e combattere l'antisemitismo, proteggendo al tempo stesso la libertà di espressione. Inizialmente firmato da 210 studiosi, conta circa ora 370 firmatari. E tra questi anche il professor Simon Levi Sullam, di cui ascolteremo ora il suo intervento al Senato. Grazie, buongiorno. È un grande onore rivolgersi a questo consesso. Saluto i senatori presenti e anche gli esperti che sono auditi oggi, in particolare la Presidente Disegni, con stima e simpatia. Intervengo come storico dell'antisemitismo che si occupa di questi temi da oltre 30 anni, l'intero percorso della mia carriera di studi. Ho pubblicato in Italia e all'estero su questi temi e ho coordinato progetti finanziati dall'Unione Europea e attualmente un PRIN, un progetto di rilevante interesse nazionale che ha sede a Ca' Foscari sul tema dell'antisemitismo in Italia. Sono anche sottoscrittore a livello nazionale, internazionale e promotore della Jerusalem Declaration on Antisemitism, un documento che alcuni anni fa ha, diciamo, con la sottoscrizione di oltre 200 studiosi in tutto il mondo, tra cui Israele e Stati Uniti. La dichiarazione è nata al centro Van Leer di Gerusalemme, promossa dai massimi studiosi di storia dell'ebraismo e dell'antisemitismo, sia appunto in Israele che negli Stati Uniti che in Europa. Citerò tra tutti Alon Confino, mancato di recente, nipote di il grande ebreo antifascista Enzo Sereni. Questo documento ha, come sapete, messo in discussione alcuni aspetti della working definition dell'AIRA, Working Definition on Antisemitism, mettendo in luce e discutendo non tanto la definizione storica di antisemitismo, ma portando, come pure sapete, 11 esempi di antisemitismo in un allegato, insomma, nelle note della medesima dichiarazione, 7 dei quali sono in realtà considerate da studiosi che, devo sottolineare, al proprio interno sono anche su posizioni molto diverse rispetto alla questione del conflitto israelo-palestinese e della soluzione delle crisi mediorientali. Quindi su questo non concordano, ma concordano sul fatto che questi 7 degli 11 esempi dell'Iran Definition sono in realtà non degli esempi di antisemitismo, ma delle critiche a Israele. Questa posizione è stata elaborata prima del 7 ottobre, ma nel frattempo i sottoscrittori della dichiarazione, che trovate facilmente online e che del resto probabilmente già conoscete, sono oltre 300 e non hanno finora messo in discussione le loro posizioni, che sono sostanzialmente quelle di distinguere nettamente critica legittima alle politiche del governo di Israele e antisemitismo, conoscendo sul piano storico che cosa l'antisemitismo è stato e pur riconoscendo che talora nelle critiche a Israele possono emergere degli elementi che appartengono alla tradizione antiebraica. Io stesso ho pubblicato un libro dalla Terza nel 2008 intitolato L'archivio antiebraico e il linguaggio dell'antisemitismo moderno, in cui sostengo che l'antisemitismo è una pratica discorsiva e naturalmente anche una pratica politica e anche un'azione politica violenta, ma che ricorre a un repertorio di luoghi comuni antiebraici, tra cui il cospirazionismo, l'accusa di usura e altre accuse di questo tipo stereotipo e pregiudizievole che conoscete. E da questo punto di vista ritengo che, in termini molto generali, quando la critica allo Stato di Israele e al governo di Israele diciamo, non utilizza e non mobilita questo repertorio di accuse che appartengono alla tradizione antiebraica, di per sé essa non possa essere definita tout court antiebraica. Questo non significa, diciamo, disconoscere il fatto che nel discorso pubblico italiano ed internazionale le pulsioni antiebraiche e il discorso antiebraico si sia rafforzato e che spesso oggi nella critica alle politiche di Israele siano presenti degli elementi che consapevolmente o meno si richiamano alla tradizione antiebraica e che quindi io stesso come storico ritengo, insomma, di dover segnalare e di non poter ritenere legittime se si appunto ricollegano appunto a una tradizione di pregiudizio e di odio anti-ebraico, mentre è legittima una critica al governo di Israele e anche una critica e un'analisi storica che può mettere in luce, questo dice la Jerusalem Declaration sottoscritta da illustri esperti internazionali, anche elementi della storia di Israele e delle politiche di Israele degli ultimi decenni che riguardano definizioni come il colonialismo di insediamento o anche aspetti che possono essere ritenuti di apartheid esercitati ad esempio nei territori che Israele attualmente occupa nella West Bank dal 1967. Questo è il frutto di una disamina serena, equilibrata e assolutamente, diciamo, sostenitrice anche naturalmente in primo luogo dell'esistenza dello Stato di Israele da parte di studiosi come Derek Penslar, che è uno dei più insigni studiosi del sionismo e dell'antisemitismo e ha la cattedra di storia ebraica all'Università di Harvard. Aggiungerò che l'antisemitismo deve essere e viene inserito dalla Jerusalem Definition in un più ampio contesto della storia dei razzismi e delle intolleranze e che anche questo debba essere tenuto conto. Ne scrisse già il grande studioso George Mosse nel suo studio Verso la soluzione finale, come si chiama in inglese, cioè la storia del razzismo europeo, che aveva il suo apice nella Shoah, ma che intrecciava razzismo e antisemitismo sul piano storico. Quindi il problema oggi è che l'inserimento dell'AIRA Definition, che tutti tutte, in un modo o nell'altro, queste proposte di disegni di legge prevedono, rischia di rendere questo documento, che non è di per sé normativo, ma testo di legge, elemento definitorio dettato per legge, e che questo può prestarsi a strumentalizzazioni politiche, di cui abbiamo almeno due esempi, e mi avvio verso la conclusione. I macroscopici esempi di questo tipo di politica ci vengono dagli Stati Uniti di Donald Trump, dove, come sapete, le più grandi università americane, Harvard, Columbia e Brown, ad esempio, per citare solo l'Ivy League, sono state minacciate di chiusura o di grave riduzione dei loro finanziamenti sulla base di una strumentale accusa di antisemitismo. Il presidente Trump ha detto, in sintesi, Columbia è antisemita, la chiudiamo. Dopodiché il 60% dei docenti di Columbia sono ebrei, il 60% o 70% degli studenti che protestano contro le politiche israeliane sono ebrei, quindi voi vedete il paradosso di questa situazione. Un altro esempio è quello tedesco, dove c'è una storia completamente diversa e molto più complessa, di cui siamo tutti consapevoli, ma potremmo fare solo tre esempi di insigni studiosi ebrei, americani e soprattutto che lavorano nel contesto americano: Nancy Fraser, Masha Geshen e Michael Rothberg di UCLA, a cui è stato impedito di parlare in università tedesche per le loro posizioni critiche di Israele, quando questi sono studiosi spesso di temi ebraici, sono di origine e sono ebrei, e quindi la Germania si è trovata ad escludere dal proprio suolo e dalle proprie università, sulla base di un'applicazione penalistica dell'IRA definition, studiosi ebrei. Vi sottopongo il paradosso di questa situazione. Concludo dicendo che gli strumenti sono, a mio avviso, altri, lo dico come universitario, come studioso, come storico: sono degli strumenti di tipo culturale, degli strumenti di tipo scientifico. Io stesso vorrei fare un altro esempio paradossale e concludo: ho sostenuto con centinaia di altri storici alcuni anni fa la contrarietà alla introduzione di una penalizzazione del negazionismo. Il negazionismo della Shoah io lo considero un reato e un fatto osceno. Ricordo i nomi dei grandi maestri Vidal Naquet ed altri che lo hanno condannato, e io stesso sono il discendente di una famiglia di deportati, quindi potete sapere che anche sul piano personale. Ecco. Ritengo tuttavia che la penalizzazione offra un palco ai negazionisti, reprima la libertà di ricerca, e che il negazionismo vada contrastato sul terreno della ricerca storica e dell'educazione nelle scuole, anche accanto ai testimoni ancora in vita, che saluto in particolare con venerazione la senatrice Segre, visto che ci troviamo in una sede senatoriale. Ho concluso per dire che, appunto, la penalizzazione di questi di fatto reati di opinione ci porta su un crinale molto grave che, dico da universitario, costituisce un rischio democratico e di aggressione alla libertà di opinione e scientifica per questo Paese. Vi ringrazio di avermi ascoltato. But the land was already claimed by a people when the cowboy came and when the soldiers came. The story of the American Indian is in a lot of ways a story of tragedy, like that day at Wounded Knee, South Dakota. Bigfoot was an Indian chief of the Miniconjou band, a band of Miniconjou Sioux from South Dakota land. Bigfoot said to Custer, "Stay away from Crazy Horse." But Custer crossed into Sioux land, and he never came back across. Then Bigfoot led his people to a place called Wounded Knee, and they found themselves surrounded by the 7th Cavalry. Big Chief Bigfoot, rise up from your bed. Miniconjou babies cry for their mothers lying dead. Bigfoot was down with a fever when he reached Wounded Knee, and his people all were prisoners of the 7th Cavalry. 200 women and children and another 100 men raised up a white flag of peace, but peace did not begin. Sullam è professore ordinario di storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove insegna attualmente storia contemporanea. Si è formato e ha svolto attività di ricerca in Italia, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ha insegnato a Siena, Berkeley e Oxford. È autore, tra l'altro, dei volumi Una comunità immaginata, Gli ebrei a Venezia 1900-1938, L'archivio antiebraico, Il linguaggio dell'antisemitismo moderno, L'apostolo a Brandelli e L'eredità di Mazzini tra Risorgimento e Fascismo. Alla fine del suo intervento, al professor Simon Levi Sullam sono state poste alcune domande. Il senatore Scalfarotto di Italia Viva, promotore del DDL 1575, ha chiesto al professor Sullam spiegazioni sulla definizione di nazionalismo, che per lui è cosa bellissima perché legittima aspirazione del popolo ebraico. Il senatore De Cristoforo ha espresso perplessità sul punto 10 della dichiarazione dell'AIRA, in cui, se si accusa la politica di Israele di nazismo, questa diventa automaticamente antisemitismo, evidenziando un doppio standard. La senatrice Maiorino ha chiesto che cosa ne pensa il professore di una norma che sta creando una spaccatura nel mondo ebraico, perché quella norma, che dovrebbe tutelare una minoranza, non viene apprezzata da questa minoranza, che la recepisce come una violenza. Infine, il senatore Del Rio, firmatario del DDL 1722, dopo aver dichiarato che in 3 anni nessuno si è lamentato dell'AIRA, ha chiesto perché la JDA non è stata adottata da nessuna parte. Ascoltiamo adesso le risposte del professor Sullam. Ringrazio i senatori per l'attenzione che hanno dedicato alle mie parole, oltre che per i loro sforzi di questi mesi su questo tema. Le questioni sollevate sono molte, solo ad alcune potrò rispondere per motivi di tempo. Io ed altri studiosi saremmo in generale contrari a legiferare su questo tema, perché effettivamente veniva richiamata la legge Mancino, esiste già, ha dei riflessi, anzi è inserita in parte nel codice penale, si riferisce all'istigazione all'odio razziale e potrebbe essere applicata nei casi estremi in cui ciò sia necessario. La Jerusalem Declaration non è mai stata proposta come un strumento sostitutivo dell'IRA Definition o come uno strumento legislativo, è un documento effettivamente di critica da parte dei più eminenti studiosi di storia dell'antisemitismo e degli ebrei, dell'AIRA Definition e del suo uso politico. Ecco. Ci sono alcuni punti che sono stati sottolineati, mi è stato chiesto la critica al nazionalismo, al sionismo come nazionalismo. Beh, il sionismo è e deve essere riconosciuto come il diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico, ma il nazionalismo, quando diventa diciamo ultranazionalismo, quale esso è divenuto da parte dei governi di destra israeliani che si dicono sionisti, come il Likud prima di Begin all'altezza della guerra del Libano e poi oggi di Netanyahu e dei suoi ministri, anche quello è un ultranazionalismo che può essere criticato in quanto nazionalismo, diciamo. Il doppio standard, insomma, non mi sembra nemmeno il caso di soffermarsi, Israele non può stare al di fuori di una critica che riguarda tutti i paesi democratici e non. Il senatore De Cristoforo sollevava la questione del parallelo con il nazismo e io dovrei rispondere a due titoli, cioè da una parte come cittadino e dall'altra come storico. Come cittadino dico ci sono aspetti dell'attuale governo di Israele, di alcuni ministri, Smotrich e Ben-Gvir, che sono fascistoidi e razzisti. Questo è, credo, universalmente riconosciuto, forse da loro stessi, ecco. Come storico dico, sarei più cauto a un parallelismo tra Israele e il nazismo, si possono fare delle comparazioni storiche, diciamo, non si possono identificare i fenomeni che di per sé sono di per sé stessi tutti diversi, ogni fenomeno storico è diverso, ci possono essere quello che è grave e che può suscitare un'accusa di antisemitismo è l'uso politico dell'accusa di nazismo o anche quello di genocidio rivolto a Israele, ma a tutto il popolo ebraico in quanto popolo ebraico, diciamo. Cioè, il problema non è tanto se Israele sta commettendo un genocidio e non siamo qui per discutere questo. Il problema è che nel dibattito politico viene fatto un uso politico dell'accusa di genocidio rivolta al popolo ebraico che ha subito uno dei principali genocidi della storia. E quindi da questo punto di vista si può scivolare verso l'antisemitismo senz'altro. Come contrastare il linguaggio dell'antisemitismo, chiede il senatore Giorgis, lo ringrazio, gli strumenti pedagogici sono molti e complessi, da universitario cerco di applicarli tutti i giorni assieme ai miei colleghi, abbiamo un giorno della memoria ormai imminente che ha delle sue stanchezze ma anche una sua funzione educativa, pedagogica e civile fondamentale in un paese che ha applicato le leggi razziali e anche la deportazione in autonomia, io ho scritto un libro su questo, I carnefici italiani, e credo che su questo dobbiamo continuare a lavorare. Ecco, purtroppo nella legge istitutiva del giorno della memoria manca una parola che sarebbe fondamentale per l'Italia, non antisemitismo ma fascismo, che l'Italia ha prodotto e insegnato a questo paese e all'Europa purtroppo, e che ha causato le leggi razziali e le deportazioni antiebraiche. Al senatore Del Rio, che ringrazio, ma c'erano anche le osservazioni sulla definizione AIRA. La definizione AIRA in sé non è, diciamo, cioè senza gli esempi, non è problema, è una definizione molto basica di antisemitismo, diciamo, e quindi largamente condivisibile. Il problema è inserire qualsiasi definizione di un fenomeno storico dentro una norma di legge per poi farne uno strumento politico. Ah, ma tu non stai... tu rientri in questa definizione e quindi io posso penalmente perseguirti o limitare la tua libertà di parola e addirittura di ricerca. Se io presento un libro, guardate che le principali critiche alla storia dello Stato di Israele vengono dai nuovi storici israeliani, Benny Morris eccetera, quindi all'interno delle università israeliane si è sviluppata una corrente critica di revisione del sionismo, cito Benny Morris ma cito soprattutto Zev Sternel, critico del sionismo come nazionalismo herderiano e un grande attivista per la pace. Zev Sternel è uno dei più imponenti politologi e storici al mondo, che insegnava scienze politiche all'Università di Gerusalemme. E quindi questa libertà viene dalle università israeliane, queste critiche vengono dalle università israeliane. Concludo, sì, io non, mi sono richiamato al mio passato biografico e familiare, ma non sono qui per rappresentare un punto di vista ebraico che è stato rappresentato dall'Unione delle Comunità Ebraiche. La mia richiesta, io credo che la questione non deve riguardare gli interlocutori, non devono essere le comunità ebraiche, devono essere i cittadini italiani in genere. Di questo deve tenere presente il Senato se vuole affermare principi di libertà. Mi fermo. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. Streets of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.